nasce dalla evidenza che anche la nostra regione è colpita direttamente dal cambiamento climatico in corso e quindi ha estrema necessità di dotarsi di un piano di adattamento al cambiamento climatico. Come dico sempre, adattamento non significa rassegnazione, significa però prendere atto dei fenomeni meteo estremi sempre più frequenti e quindi rendere il territorio in grado di rispondere a questi eventi meteo, ma anche rendere in grado le persone di farvi fronte. Pensiamo alle ondate di calore. Ormai è evidenziato che le ondate di calore incidono pesantemente sulla salute e portano anche a dei decessi, soprattutto ovviamente per i soggetti più fragili. Quindi da un lato ci vuole un piano di adattamento, ma bisogna che la Regione Emilia-Romagna faccia anche la sua parte dal punto di vista della mitigazione, ossia della riduzione delle emissioni di gas serra che sono all'origine del riscaldamento globale. Noi dobbiamo modificare il modo di gestire i corsi d'acqua. Questa è una battaglia che io da capogruppo di Europa Verde ho cercato di fare in regione. Sento che adesso De Pascale è d'accordo su questo punto di vista. Che cosa vogliamo? Vogliamo che non si costruisca a ridosso dei fiumi, che non vengano trasformati in autostrade d'acqua, ma che abbiano lo spazio per esondare in maniera da non creare problemi a persone e cose. E vogliamo anche che la gestione dei corsi d'acqua venga organizzata per bacini idrografici. Oggi purtroppo si è preferito dare il compito della gestione dei corsi d'acqua all'Agenzia per la Protezione Civile, che è organizzata su base di provincia. Invece i compiti, diciamo, di sicurezza idraulica, di gestione dei fiumi e dei corsi d'acqua vanno scorporati dall'Agenzia della Protezione Civile, perché sono compiti completamente diversi. La Protezione Civile interviene a danno fatto o quando sta per verificarsi un fenomeno estremo e si mette in campo, ma tutta la gestione precedente, quella della sicurezza idraulica, quella della pianificazione, va impostata su base dei cosiddetti bacini idrografici, non per province. Poi vanno liberati fossi che sono stati tombati perché questo facilita, diciamo, l'utilizzazione dei megatrattori, delle megamacchine, ma in questo modo il territorio è stato privato anche di quei canali, appunto, di scorrimento, di deflusso, di assorbimento delle acque, che sono i fossi, che sono le cosiddette scoline. Quindi bisogna veramente riprendere in mano tutto, e anche di questo parla appunto la legge. Poi naturalmente ci vogliono forti investimenti. Le cifre che abbiamo visto messe a disposizione della regione dal governo non sono all'altezza di permettere di fare questo tipo di interventi, di ridare appunto spazio naturale ai fiumi. Da un lato quindi la mitigazione, ridurre le emissioni, e dall'altro mettere il territorio e le persone in grado di rispondere in maniera adeguata al cambiamento climatico. Ecco, questi sono i due assi del progetto di legge. Possiamo dire quindi che serve una gestione non più emergenziale, ma sistematica e pianificata. Esattamente, bisogna programmare la gestione, appunto, assumendo questi nuovi principi e questo nuovo punto di vista. La crisi climatica è già qui, non deve arrivare, c'è già. In Romagna c'è stato un aumento della temperatura media rispetto alle medie storiche di quasi 1,5 gradi, che è quella soglia massima che è stata stabilita con gli accordi di Parigi. E se guardiamo oggi ai dati dell'Emilia-Romagna, purtroppo vediamo che non siamo una regione virtuosa. Le emissioni medie pro capite anno, emissioni di gas climalteranti, di gas serra, sono 9,5 tonnellate. La media italiana è 6,7 tonnellate. Quella europea è 7,3. Quindi quella dell'Emilia-Romagna noi emettiamo, quindi contribuiamo molto di più all'accumulo di questi gas serra. I consumi energetici coperti con fonti rinnovabili, quindi le fonti pulite, sole, vento in primis, e in Emilia-Romagna è l'11,4%, la media italiana invece è molto più alta, a livello nazionale è il 23%, e bisogna arrivare a ridurre le emissioni del 55% al 2030, che dobbiamo arrivare a coprire i consumi energetici per il 45% con fonti rinnovabili, e che dobbiamo ridurre i consumi energetici, quindi deve aumentare l'efficienza energetica, del 32%, e va coinvolta la popolazione a tutti i livelli, perché tutti siamo chiamati a fare la nostra parte. Per questo nel mio progetto di legge ho previsto l'istituzione dell'Assemblea dei cittadini per il clima.